Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Vi ricordo alcune rapide informazioni di servizio. La prima riguarda, come sapete, il sito radio24.it, all'interno del quale potrete trovare il modo di scaricare facilmente tutte le puntate, ascoltarvele quindi dal computer, dal PC, via podcast, come desiderate. Trovate anche sotto il mio profilo il blog Guardie o Ladri, che trovate altresì sull'home page del Sole 24 Ore. Di cosa parlo? Lo sapete, di temi di legalità e criminalità organizzata. L'ultima informazione di servizio è quella che riguarda la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Ebbene, questa mail è stata raggiunta da un nostro radioascoltatore di Bari, Nicola Mancini, che è il contabile, il ragioniere di un'impresa che si trova in provincia di Bari, si trova a Trigiano, è la Genchi Pharma, che fa presente un problema che non è chiaramente soltanto dell'impresa per la quale lavora, ma che riguarda i rapporti molto più spesso estesi tra contribuenti e fisco. Allora, buongiorno a lei, signor Mancini. Buongiorno a lei, dottor Galullo. E dico buongiorno ad un vecchio amico, ad un tra i maggiori esperti del Sole 24 Ore in materia tributaria, ed è Luigi Lovecchio. Buongiorno, Lovecchio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Mancini, ci racconti un po' qual è la storia, diciamo così, di disfunzione nei confronti di Equitalia che la vostra impresa ha vissuto a partire dal 96. Allora, le ripeto brevemente la storia. Nel 96 ricevo un rimborso IRPEF-ILOR tramite l'allora SESIT, utilizzando la procedura del conto fiscale. Questo nel 96. Ecco, SESIT era, diciamo così, l'agente riscossore. Esatto, oggi è diventato Equitalia. Nel 2009 il titolare della mia azienda decide di vendere un immobile che è sito in Milano e il notaio ci fa sapere che c'è un'ipoteca iscritta su questo immobile. Ora, dopo aver fatto tutti i vari accertamenti, scopriamo che questa ipoteca è stata iscritta per una cartella esattoriale relativa sempre a quel famoso rimborso ricevuto nel 96. Avremmo ricevuto un rimborso maggiore rispetto a quello che effettivamente ci era dovuto. Fatte tutte le verifiche, scopriamo che noi abbiamo ricevuto effettivamente quello che ci spettava. Presento l'istanza di sgravio all'Agenzia delle Entrate, questo a novembre 2009. Agenzia Entrate mi dice che per poter concedere lo sgravio devono avere una lettera da Equitalia nel quale Equitalia conferma gli imposti effettivamente pagati. Nel frattempo, siccome l'immobile doveva essere venduto, per poter cancellare l'ipoteca, il titolare dell'azienda ha comunque pagato interamente la cartella esattoriale con tutti gli oneri connessi e ha avuto una lettera da Equitalia con la quale viene comunicata la cancellazione dell'ipoteca per poter effettuare la vendita dell'immobile. Sino alla data in cui le ho praticamente scritto la mail, Equitalia non aveva né proceduto alla cancellazione dell'ipoteca, ne aveva dato comunicazione all'Agenzia Entrate degli importi effettivamente pagati nell'allora 96 alla mia azienda per poter avere lo sgravio. Quindi alla data in cui l'ho scritto eravamo due volte, avevamo il danno e la beffa. Certo. Pagato la cartella esattoriale, il titolare dell'azienda non poteva neanche avere ancora l'importo della compravendita perché la banca che ha concesso il mutuo aveva fatto iscrivere al notaio un deposito vincolato. E quindi eravamo ancora in attesa di sapere che Italia, certo, cosa doveva comunicare. Allora, comunque voi la pensiate, io credo che queste vicende siano allucinanti, perché al lordo delle ragioni legali, delle norme, dei codici, dei codicilli e di una parentesi che si apre all'interno delle normative, nelle mille discipline italiane, io trovo che dal 96 al 2010 avere a sorpresa un'ipoteca, poi il tentativo di toglierla, pagare, non saper nulla. Insomma, quando si viaggia nell'era della telematica con un BlackBerry si può raggiungere il mondo in un secondo, io trovo tutto ciò allucinante. E chissà quante imprese o anche quanti contribuenti, singoli, quindi persone fisiche, si troveranno in questa situazione ancora oggi. Io mi occupavo di fisco 20 anni fa al Sole 24 Ore e mi sembra di rivivere le stesse situazioni. Allora, sentiamo però qual è la risposta di Equitalia, perché noi Equitalia l'abbiamo cercata e abbiamo cercato una risposta. Ebbene, sentite che cosa ci hanno detto. Gentile dottoressa Fusconi, in merito al caso del contribuente Genchi Guelfo, segnalato alla rubrica di Radio 24 Un abuso al giorno, Equitalia ETR si è prontamente attivata per recuperare ogni informazione utile, con tutte le difficoltà dovute al fatto che la questione risale a ben 16 anni fa ed è stata gestita dall'allora concessionario della riscossione, SESIT SPA. Ricostruendo la vicenda, Sesit ha proceduto alla notifica della cartella di pagamento il 28 novembre 2001. La cartella è partita a seguito di iscrizione a ruolo del signor Genchi da parte dell'Agenzia delle Entrate, ufficio di Bari 2, che nello stesso anno aveva accertato l'erogazione di un rimborso fiscale non dovuto, ma percepito dal contribuente nel lontano 1996 per la somma di lire 9 milioni, euro 4.846,86. Il 24 novembre 2009 l'Agenzia delle Entrate di Bari 2 ha trasmesso a Equitalia ETR una richiesta per verificare l'effettivo importo erogato nel 96 al contribuente a titolo di rimborso fiscale. Dato che l'informazione richiesta dall'Agenzia delle Entrate non è stata di facile riscontro, in quanto riferita a un'operazione di ben 16 anni fa, Equitalia ETR è riuscita solo da pochi giorni a ricostruire gli elementi del caso, dando notizia all'Agenzia delle Entrate e provvedendo alla cancellazione dell'ipoteca sull'immobile. Sarà ora l'ente titolare della pretesa impositiva, cioè l'Agenzia delle Entrate, che dovrà valutare la correttezza del rimborso fiscale avvenuto nel 1996 e riconoscere l'eventuale sgravio al contribuente per la somma iscritta a ruolo. Cordiali saluti, Salvatore Baffa, referente relazioni esterne Equitalia ETR, Bari, 11 marzo 2010. Oh, quindi avete ascoltato la risposta di Equitalia che, quando si tratta di ricostruire a ritroso, ha difficoltà perché il caso è vecchio, però quando si tratta di richiedere e porre ipoteche, invece è velocissima. Comunque la notizia ce la dà, cioè ci dice che adesso sarà l'Agenzia delle Entrate, e poi il proprietario è sempre lo stesso, cioè sempre lo Stato è, che dovrà notificare al nostro contabile della Genchi Pharma la notizia dell'avvenuta cancellazione dell'ipoteca. Insomma, tutto quanto si poteva fare rapidamente, invece c'è stato bisogno di ben altro. Allora, Luigi Lovecchio, intanto un commento a questa vicenda. Ma è un commento molto semplice, sicuramente sono cose che erano molto più frequenti fino a qualche anno fa, quando l'Agenzia delle Entrate e l'amministrazione finanziaria erano più disorganizzate di quanto lo siano ora. Ora temo che con la recente riorganizzazione ulteriore dell'Agenzia delle Entrate situazioni di questo genere possano in qualche modo ripresentarsi. Ritengo che il contenuto tecnico del commento sia nullo, è evidente che la situazione parla da sola, c'è un errore, e c'è un errore per la verità doppio, perché la cosa grave è non solo il fatto che viene richiesta una somma non dovuta, ma che viene iscritta una ipoteca senza che sia stata notificata la cartella di pagamento. Ora, loro dicono di averla notificata sulla base di quello che hanno risposto il 28 novembre del 2001. Io non so che cosa sia successo, perché ovviamente non ho le carte, non sono in grado di fare una valutazione, certo. Però è successo altre volte che la cartella a loro risultava notificata e in effetti non è mai stata notificata. Sì, ma infatti io anche trovo, Lovecchio, questa qui è una cosa veramente allucinante, cioè uno un bel giorno si sveglia, vuole vendere o comprare un immobile e si trova un'ipoteca su quell'immobile, cioè è una cosa veramente, veramente raccapricciante. Quindi secondo lei, con la nuova riformulazione dell'Agenzia delle Entrate, le cose non potranno che peggiorare, viva l'Italia insomma. No, il periodo di passaggio, no, adesso non esageriamo, non diciamo cose troppo violente, il periodo di passaggio ovviamente è sempre critico, e questo è il periodo di passaggio, perché stanno istituendo le nuove direzioni provinciali dell'Agenzia delle Entrate. E ovviamente ce ne siamo già accorti noi professionisti e contribuenti, quando siamo andati a parlare abbiamo trovato grosse difficoltà, perché spesso non trovano le carte materialmente, perché non sanno in che ufficio sono andati a finire. Questo è un dato di fatto. Poi che a regime le cose migliorino oppure no, questo lo vedremo. Certamente, anche se quando in Italia si vogliono peggiorare le cose si frammentano le competenze e i poteri, quindi il fatto che adesso ci siano anche anche queste sedi provinciali non potrà che, come dire, complicare le cose. Poi vedremo se il tempo mi darà ragione o torto, spero ovviamente di aver torto. L'unica buona notizia per la nostra impresa che ci ha scritto è che dovrebbe arrivare la cancellazione di questa ipoteca. Io ringrazio ovviamente Nicola Mancini, il radioascoltatore di Bari che ci ha scritto, il nostro esperto, dottore commercialista Luigi Lovecchio, grazie in regia a Valeria Bernardi, in studio ad Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.